se la notte scura ti nasconde il blu. Predica quel vento sulla tua faccia, soffi distratta e vuota malinconia, che il desiderio è il dubbio che si scaccia, e dalla promessa nasce la magia. Credi nelle stelle e che la fortuna non si è fatto cieca, ma troverà per tutti i biechi inganni la buona scusa, sciocca la ragione si convincerà. Credi che il silenzio sulla tua bocca forse è soltanto sede di verità, e se la gola secca di un'altra brocca bevi e la tua pace mai si sazierà. Go.